Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mia mamma è professoressa di letteratura e qualche volta si discute di storia o della politica, che non va per il verso che vorremmo. All'ora di pranzo un volontario passa a prendere gli ordini di chi vuole mangiare, e davvero non sono molti. Già il cibo non piace in nessun ospedale, figurarsi in queste condizioni. Salve, sono Luca Tossoni, abito a Milano e sono un impiegato di banca. Fatto sta che la 52esima settimana dell'anno, cioè l'ultima, la trascorrevo a studiare le valanghe. Per la precisione, valanghe di neve dense, perché per quelle polverose occorrerebbe andare un po' più in là, in Svizzera. Che per me, in realtà, vorrebbe dire semplicemente scavalcare la montagna che corona la mia vallata. Voi siete qui, @radio24.it, fate come ha fatto Ilaria, che ci ha mandato un piccolo pezzo di storia della sua vita, raccontata in un periodo che di solito è considerato uniforme per tutti, che è il periodo natalizio. Lei invece, come ci scrive, come scrive nel suo racconto, che è molto bello, nella 52esima settimana, cioè la settimana che sta tra Natale e Capodanno, forse una delle settimane anche più inutili, perché sta tra una festa che è appena passata e una che deve arrivare, e chi è in ferie o è in ferio, se è al lavoro è comunque come se non lavorasse. Tant'è, in quel periodo lei fa una cosa molto particolare, che è studiare le valanghe. Se voi avete una storia che vi è successa, che vi è capitata, un episodio anche piccolo, che è ambientato nel periodo natalizio ma che non ha nulla a che fare con quel periodo lì, con il Natale, le feste, i regali, gli auguri e i baci e abbracci, voi siete qui, @radio24.it, tra oggi e un paio di settimane. Di più? Due, no, una settimana, tra oggi e una settimana. Ci stiamo lavorando, sapete, siamo sempre talmente avanti che il 12 di novembre lavoriamo alle storie che andranno in onda tra Natale e Capodanno. Voi siete qui, @radio24.it. La storia di oggi, invece, la storia di oggi è una storia molto delicata che... Allora, se io raccontassi a una persona che fa radio fuori da questa radio... Pensate a una qualunque radio fuori da questa radio, che alle 16:10 di un giorno qualunque, come un 12 novembre del 2012, racconto la storia di un figlio che parla di come ha combattuto di fianco alla madre, che sapeva che stava per morire, ma che comunque le stava vicino perché lei continuava a combattere, mi direbbero: tu sei pazzo. La gente cambia canale, ma non puoi fare una roba del genere. La gente gira, va su Radio DJ, va sullo zoo. È già finito lo zoo a quest'ora, non lo so. Perché la radio serve a far sentire meglio le persone. C'è gente che ancora dice: a cosa serve la radio? Make people feel better. Bene, è dedicata a tutte loro questa puntata. È dedicata a loro la storia di Luca e la storia della sua mamma, che abbiamo intitolato Storia delle cause perse, più o meno. È una frase che in realtà usa Luca nel suo stesso racconto. Voi siete qui, @radio24.it, altrimenti se avete un profilo Twitter usate anche quello, cercate Voi siete qui R24. Abbiamo un hashtag che è cause perse, e già Paolo ha scritto: la mia causa persa è cercare di convincere mia moglie a lasciare l'Italia e andare a trovare fortuna da un'altra parte. 349 238 6666, anche lì le storie, come quella di Renzo che scrive: uno dei miei maestri di vita mi diceva che il soldato che va in guerra non convinto ha già perso. 349 238 6666, questa è la storia della mamma di Luca. Sono le 6:30, suona la sveglia. Di solito è mia mamma che si sveglia prima di me, ma non il venerdì. Non quando la devo accompagnare in ospedale. Non si fa colazione il venerdì, perché c'è troppo poco tempo. Bisogna muoversi prima che il caos del mercato paralizzi la città. Bisogna trovare però il tempo per spiegare a una donna di 63 anni che piange al solo pensiero della nausea che stanno per mandarla in vena, per quale motivo deve lottare per stare ancora un po' con noi, per combattere una battaglia sapendo che la guerra è perduta. Io non combattevo la battaglia, ero lo scudiero. La battaglia la combatte il malato, tu la battaglia la racconti. Ed è una cosa terribile, perché davvero tu vorresti condividere, vorresti aiutarlo a sopportare un peso, ma non puoi, il peso è suo. Tu al massimo aiuti a portarlo. Via in macchina, di corsa. La lascio ai piedi della salita che porti in ospedale. Mollo la macchina e torno correndo. Poi un passetto alla volta. Saliamo per i 50 metri di vicolo che ti portano fino al portone dell'oncologia. saluti le infermiere e consegni i fogli. E poi aspetti. Accompagnare un malato vuol dire sempre aspettare, molto. Aspetti e speri che gli esami del sangue del giorno prima siano andati bene, che la terapia si possa fare, perché se sono andati male, si torna a casa. Stamattina invece è andata bene. Il medico di turno autorizza la terapia e parte la richiesta dei farmaci. Prima l'iniezione di antistaminico e poi si cerca un letto e di nuovo si aspetta. Una volta le sistemavano la flebo, ma da quando le terapie sono troppo frequenti le hanno messo un catetere venoso, cioè un tubicino che arriva fino alle vene della clavicola. Fa un po' paura, è delicato, però è comodo e le evita una puntura e un livido. Mentre si aspettano i farmaci, si parla. Parlo con lei, parlo con gli altri malati, quelli della stessa stanza. Ricordo un signore, una volta, di un paese vicino, che attaccato alla flebo organizzava al telefono il raduno degli alpini ed era triste perché la terapia gli impediva di partecipare alle bevute. Ricordo la mia amministratrice di condominio che, ricoverata, lamentava la lentezza del suo portatile con cui lavorava lì in ospedale. Comincia la terapia. Ormai sono le 11 e il mio compito si riduce a sorvegliare le flebo, chiudere i deflussori e chiamare le infermiere per rinnovare i flaconi. E poi chiacchierare. Si legge un libro, si commentano le notizie. Mia mamma è professoressa di letteratura e qualche volta si discute di storia, della politica, che non va per il verso che vorremmo. O ci raccontiamo per l'ennesima volta di quando, a un concorso di poesia per ragazzi, vinse una poesia copiata da un brano di Montale. La mia mamma ha insegnato, credo, 36 o 38 anni e per lei, devo dire, da un lato era veramente tutto. Va detto che, lasciata la scuola, anche travolta un po' dalla malattia, non le è mancato davvero il lavoro. All'ora di pranzo un volontario passa a prendere gli ordini di chi vuole mangiare e davvero non sono molti, eh. Già il cibo non piace in nessun ospedale, figurarsi con la chemio in corpo. Mia mamma riesce a mangiare un panino portato da casa in una borsa frigo, di quelli morbidi, di pancarré e prosciutto cotto. Poi si addormenta. Io le sistemo un plaid e torno e poi è il turno del platino, il farmaco più lungo. Ci mette 40 minuti a scendere. Così ho il tempo anch'io di scendere, andare a farmi un toast nel bar sotto l'ospedale e poi tornare. Sono le 2. La terapia è finita. Si saluta e si esce. Nel pomeriggio il malato di solito dorme. Mia mamma se n'è andata da più di un anno, ma io non sono qui dove scrivo. Una parte di me è e resterà sempre nell'ultima stanza a destra del day hospital, a rivivere quei giorni insieme tristi e bellissimi. Di gravi malattie dovrebbero parlare solamente le persone che quel tipo di esperienze le hanno vissute direttamente e io quindi eviterò di dire cose a proposito. Almeno oggi. La storia di Luca è molto preziosa e mi ha fatto venire in mente un sacco di cose. La cosa che mi ha incuriosito di più però è legata al suo modo molto battagliero di vivere la malattia insieme a sua madre, senza però farsi illusioni. Un modo molto lucido ma non rassegnato. Per citare le sue parole, lui dice: combattendo insieme a lei una battaglia sapendo che la guerra è perduta. Se non ricordo male, mi pare che Che Guevara, quando era un soldato, che poi era sostanzialmente un soldato, in uno dei suoi diari ha scritto proprio questa frase: le uniche battaglie perse sono quelle che non si combattono. A molti capita di parlare della vita come se fosse una serie infinita di battaglie, no? Come se in pratica la vita stessa fosse una guerra. Si dice ad esempio che ci sono state delle piccole scaramucce familiari, oppure si dice che sul fronte del lavoro tutto bene, ma su quello dell'amore qualche difficoltà. Quando si è in una situazione complessa e difficile si dice ad esempio che si è in trincea, no? E forse non è un modo completamente sbagliato di vederla la vita, non lo so. Ogni giorno non si sa se ad esempio il vigile che è in agguato ti farà la multa, o una persona che detestiamo ti chiama al telefono, o se il mal di testa ti tende un'imboscata, ad esempio. Da quello che Luca ha scritto, la battaglia che ha combattuto con sua mamma è stata molto dura, ma combatterla alla fine è stato meglio che non farlo. Sapevano probabilmente tutte e due che lei non avrebbe resistito a lungo e che la malattia avrebbe vinto. Però non c'era un altro modo di agire. Un po' come un estremo istinto primordiale, come un'imbattibile dimostrazione di forza, di energia. Come tenere gli occhi alti e guardare in faccia la malattia, perché alla fine ti avrà, però non ti farà paura. Perché è solo combattendo che hai la sensazione di essere ancora vivo. Conosco persone che non hanno alcuna malattia, eppure si trascinano da un giorno all'altro non facendo altro che girare le pagine del calendario. Anche a me è capitato. E quando ho letto le ultime parole del racconto di Luca, ho dovuto farlo due volte, perché lui ha proprio scritto: una parte di me è e resterà sempre nell'ultima stanza a destra del day hospital, a rivivere quei giorni insieme, tristi e bellissimi. E probabilmente, non lo so, ma probabilmente è in quel bellissimi che c'è il segreto di una forza che non vedo tanto di frequente, di un uomo e di una donna che combattono una guerra già persa, sapendo che non potrebbero fare altro, fieri e sorridenti. Perché in un angolo della loro mente c'è la voglia di continuare a essere lì, la necessità di provarci sempre e la speranza che la guerra, un giorno, chissà, la si possa anche vincere. Shall I sleep to keep this peace? The winter from her leaving to the bow I ringrazio tutti quelli che scrivono al 349-238-6666 dicendo che in qualche modo hanno rivissuto delle esperienze loro o personali o dei familiari. E ringrazio soprattutto Bea che dice: stavo anch'io per cambiare stazione. E poi invece non l'ho fatto. Insieme a lei anche Gianni che mi ha appena scritto in privato. 349-238-6666, tutto nasce da Luca che ha trovato... in parte credo anche il coraggio di mettere nero su bianco questa storia. Pronto Luca? Sono qui. Ciao, come stai? Sopravvivo, grazie. Beh, un po' come tutti, insomma, più o meno. Ma sì. Senti, dove ti trovi in questo momento esatto? E adesso sono nel parcheggio della banca, in macchina. Allora, nel senso che tu lavori in banca, giusto? Dicevi prima, e sei uscito... Ma hai finito di lavorare già oppure ti sei preso... No, ho preso un'oretta di permesso. Ah, addirittura. Quanto prima si deve chiedere il permesso al proprio capo in banca? Ma al mio anche 10 minuti, però. Cioè, ma funziona che tu dici, scusami, prendo un permesso oppure devi farti le giustificazioni? Cioè, devi scrivere qualcosa? Cioè, è formale o informale? La mia è informale. Ok, la tua è informale. Però dipende dall'anzianità, dipende da tante cose tipo fantozzi. Diciamoci la tua realtà. Cioè, sempre lì torniamo. sempre al ragioniere. Luca, quanto tempo fa succedeva questa cosa? Da quanto tempo non c'è più la tua mamma, ad esempio? Partiamo da lì. La mia mamma non c'è più da febbraio dell'anno scorso e il racconto è una qualunque delle giornate dei 4 anni precedenti. Perché è durato 4 anni l'intero iter. E tu per starle vicino all'epoca come trovavi il modo? Appunto, prendevi i permessi, già lavoravi, studiavi ancora? Beh, ho cambiato lavoro in buona sostanza, perché io già lavoravo a Milano, sono tornato a Torino e all'inizio della malattia, quando diciamo le cure erano meno frequenti, si poteva con qualche giorno di ferie piuttosto che con altri strumenti si poteva seguire, poi pian piano che le cose sono peggiorate ho dovuto chiedere un congedo. Tu giustamente prima dicevi che tu non l'hai combattuta questa battaglia, lo ha fatto lei, no? No. Che sono le persone che la vivono sulla propria pelle a farlo, e probabilmente si è in ultimo si è sempre da soli, no? Diciamo, volendo raccontarcela fino in fondo. Però però c'è un piccolo frammento di quella vita lì, cioè, ed è che la sensazione è che anche in quei momenti, che sono dei momenti estremi, se vuoi anche solo perché stanno all'estremità della nostra vita, si parla di cose quotidiane, no? Per cui si parla, sì. Di cosa parlavi? Come stavi vicino a tua madre? Ma sai, si sta vicino in tanti modi, cioè non è che si cerca ovviamente di non parlare di morte o di malattia, si parla si guarda quello che succede l'ora dopo, cioè si parla: dai, che cosa ti cucino stasera per cena, dai, andiamo, proviamo a vedere se si riesce a uscire. Io mi ricordo, lei poverina verso la fine aveva difficoltà a camminare, si stancava pochissimo dopo pochi passi. Sì. Ha voluto provare per forza, mi ricordo una volta, a fare 50 metri in bicicletta. Io ero la paura personificata, perché sai, uno non ha più difese immunitarie, se cadi e ti sbucci tanto così una feritina, certo, è un problema grosso. Però era veramente felice quando ha finito sui 50 metri, aveva un fiatone terribile, l'ho dovuto portare a casa pianino, però senti, di queste piccole cose. Luca, a proposito di queste piccole cose, mi spieghi questa storia del concorso di poesia che era copiato da una poesia di Montale, cioè come l'aveva scoperto lei? Ah, niente, era una... Ma lei insegnava le medie, è un concorso che fanno tante scuole medie, non so se ci sia ancora, c'era già quando ero bambino, è durato anni e anni, tu mandavi una poesia, poi c'era un premio per la migliore poesia, un premio per la migliore classe. Sì. Un anno guarda sta poesia che ha vinto e dice, ah, io questa la conosco, guarda che la riguarda, pensaci che ci ripensaci, dopo un po' scopre che è una poesia copiata, la troviamo su un libro, c'è proprio uguale. Paro, però ha vinto, si vede che era bella. Senti, tu adesso in banca esattamente cosa fai? Io sono risk manager. Sei, scusami, cioè, risk manager, ok. Sì. Cioè, esattamente... Ma sostanzialmente, io più che un impiegato di banca, in effetti io sono un matematico. Praticamente io sono un risk manager di mercato, cioè controllo che i trader che comprano le posizioni della tesoreria sul mercato non combinino qualcosa di veramente grave da far capottare la banca. La banca, non è male, sarebbe un termine che userebbe volentieri anche Barisoni, credo. E poi ti saluto, Luca, qual è il modo in cui ricordi la tua mamma? Quando capita, se capita, ci sono dei momenti particolari, dei posti particolari? Beh, io me la ricordo in cucina. Mi ricordo in cucina quando aveva ormai perso i capelli, che mi saluta. Me la ricordo, in realtà me la ricordo in un giorno preciso, un momento che si voltava e faceva per mandarmi un bacio. Luca, ti ringrazio davvero tanto per la storia, per il clima e per il modo in cui ci hai raccontato tutto. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ha la faccia allegra, Luca, nella foto che ci ha mandato, che potrebbe essere scattata non so perché, ma tipo nel Wyoming o nel Wisconsin. Ha su un maglione a trecce troppo largo, di quelli che metti di solito in casa, e un po' ti vergogna metterli in giro, però gli sta bene. Ha la barba, come moltissimi, i capelli scompigliati e gli occhiali scuri, quindi gli occhi non si vedono. La cosa particolare però è che è all'aperto, appunto alle spalle degli alberi del Wyoming o dell'Ohio, e lui è appoggiato a un aereo di quelli che sembrano d'epoca, con l'elica sul muso e credo un solo posto per il pilota. Battaglia. Sostantivo femminile. Scontro decisivo o importante fra grosse unità nemiche. Figurativo. Contrasto vissuto a fondo tra due o più gruppi per questioni specialmente politiche o di interesse. Arcaico. Duello. Pittura raffigurante una battaglia. Etimo latino tardo battaglia. Data seconda metà secolo XIII. 349-238-6666, si parla di battaglie, come diceva giustamente Alessandra De Luca nella definizione di battaglia. Ciascuno chiaramente ha le sue. Sul profilo Twitter Gabriele mi scrive: la mia battaglia persa è far capire a mia nonna che è importante studiare all'estero, e mia nonna mi risponde: ma gaffari, dai, ricampati a casa. Vorrei capire dove sei, Gabriele, a questo punto, e dov'è tua nonna. Oppure, ad esempio, quella di Francesca è una battaglia persa contro la di tipo linguistico. Dice: mi batto contro il po' accentato al posto di po' con l'apostrofo, contro il qual è con l'apostrofo. Transazioni nel senso di operazioni, oppure la dislocazione a destra o a sinistra. Vi faccio l'esempio per cosa intende Francesca. L'ho mangiata oggi la pizza. La pizza l'ho mangiata oggi. Ma ahimè, scrive, le lingue cambiano, io però continuo a usare la forma, secondo me, più bella, che è quella originaria. 349-238-6666. Quando abbiamo letto la storia di Luca è venuta in mente soprattutto a Tiziano, che mi ha segnalato questo libro che è bellissimo e vi consiglio di leggere, questa storia, che appunto è la trama di questo romanzo recente, è uscito nel 2012, credo, in Italia. Si chiama Storia parziale delle cause perse. L'autrice è una ragazza molto giovane, dell'83, quindi quindi a 29 anni, ma quando l'ha scritto ne aveva 27. Si chiama Jennifer Dubois, che a dispetto del nome è appunto è nata in Massachusetts. La storia è questa qua. La protagonista si chiama Irina, ha 30 anni, e ha ereditato dal padre una malattia degenerativa. Il padre è morto, quindi lei sa che morirà pure lei, tra l'altro perdendo la memoria, insomma è una cosa abbastanza triste e definitiva. Solo che a un certo punto, sfogliando tra le carte del padre, mettendo ordine, trova una lettera che lui ha scritto a questo famosissimo scacchista che si chiama Bezetov nella storia, ma in realtà è Kasparov, al quale lui chiede una cosa molto particolare, al quale lui fa questa domanda: come si gioca una partita quando si capisce che è già persa in partenza? E questa che vi leggo è esattamente la lettera che lei legge, perché trova nelle carte del padre. Gentile signor Bezetov, forse le sembrerà strano ricevere la lettera di un ammiratore americano, ma in effetti, per quanto ne so, potrebbe riceverne parecchie al giorno. C'è molto da ammirare nella sua carriera, in generale. L'originalità e il radicalismo della sua strategia, la sua perseveranza anche di fronte a una sconfitta quasi certa, la sua notevole intelligenza. Tutto questo è particolarmente affascinante per una persona che ha trascorso molti anni a prestare la massima attenzione all'importanza dei gesti di apertura. Viene da pensare che lei andrà lontano. E io mi sento piuttosto affine a lei, in un certo senso, perché anch'io in questi giorni sto disputando un incontro complicato e mi sto avvicinando, temo, alla più amara delle sconfitte. E mi chiedo se potrebbe trovare il tempo di rispondere a una mia domanda. Lei non sarebbe arrivato dov'è se non fosse per lo più un vincitore. Un vincitore, cioè, negli incontri più importanti. Eppure ci sono partite, incontri, tornei che lei ha perso. E fra questi vi sono senz'altro partite, incontri e tornei che lei aveva dato subito per persi. Alcuni senza dubbio erano persi fin dall'inizio, quelli in cui il suo intelletto si dimostrò l'intelletto limitato, transitorio e mortale che non sempre dimostra di essere. Quando si trova a giocare una partita, un incontro o un torneo del genere, qual è il modo giusto di procedere? Quale storia si racconta quando quell'enorme certezza incombe su di lei? Quando finisce per scontrarsi con i confini di se stesso? La prego, perdoni questa strana domanda. L'attribuisca al sentimentalismo o alla follia o forse alla lucidità che deriva dal lasciare troppe cose troppo presto. Con stima, professor Frank Ellison. So I grew mine. He said the past won't rest until we jump the fence and leave it behind. A giudicare dai messaggi che sono arrivati su Facebook, su Twitter e al 349-238-6666, mi sa che devo fare una telefonatina a quello che mi raccontò che la radio era Make People Feel Better. Chiudo con questa storia che ha scritto Severino. Mia figlia, 4 mesi di vita, arresto cardiorespiratorio. Arriviamo in ospedale, la rianimano. Ci dicono che ha del latte nei polmoni. La ricoverano in terapia intensiva. Dopo qualche giorno parliamo col primario. Ci dice: anche se si dovesse riprendere, aspettatevi il peggio dal punto di vista cerebrale. Oggi, dopo 14 anni, mia figlia è un adolescente come le altre della sua età. Una guerra persa in partenza, ma vinta alla fine. Grazie a lui, grazie a tutti quelli che hanno fatto sì che questo programma andasse in onda anche oggi: Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Stefano D'Andrea. Grazie soprattutto però a Luca. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Angelo, vivo a Roma e la storia che sentirete domani è la mia. Riguarda un incidente che ho avuto in un viaggio di lavoro fatto in Germania su un'autostrada tedesca, quelle senza limiti di velocità. Questa è la mia storia e io sono qui.